Sì, è un momento di festa, quindi anzi abbiamo deciso di fare 10 giorni di grandi festeggiamenti, verranno grandi autori, grandi registi, grandi attori, attrici, perché è un momento importante, ecco, la città ritrova un luogo speciale, questo cinema sottoterra del primo palazzo costruito sulla via Rizzoli rinnovata, ideato nel 1912, e già la parola modernissimo contiene in sé una grande speranza per il futuro, una grande ironia e una relazione con la storia. Ecco, questo sarà un grande luogo in cui la storia dialogherà col presente, il grande cinema del passato dialogherà con il grande cinema del presente guardando al futuro, in un luogo bellissimo. E poi finalmente, quando ci sarà anche la pensilina, diciamo fine febbraio, sarà più evidente l'intero progetto, che è il progetto di unire Sottopasso e modernissimo, avere un grande luogo espositivo assieme a una sala meravigliosa, essere sotto Piazza Maggiore, essere all'altezza della città romana ed essere nel presente. Ma chi ce l'ha un luogo così bello? Qui proietteremo tutto il cinema è l'arca dei nostri sogni, dei nostri desideri, della bellezza, è l'arca del passato, ma è anche un'arte piena di vita. Verrà Paola Cortellesi, che ha appena fatto un film meraviglioso che ha commosso tutta l'Italia e che spero abbia anche una grande vita internazionale. Quindi ecco, sarà proprio il dialogo tra tutto il cinema del passato, i piccoli film della fine dell'Ottocento, degli anni venti, i grandi classici di Chaplin, di Keaton, i film di Fellini, ma anche i film sconosciuti. Wes Anderson viene per presentare un film di un regista che si chiama Golestan, forse nessuno lo conosce, ma è un grande regista iraniano di cui abbiamo ritrovato un film meraviglioso. Se invece che iraniano fosse stato francese, farebbe parte del pantheon della storia del cinema. Ecco, il modernissimo sarà anche il luogo dove trovare i film dimenticati e ricollocarli nel posto giusto della storia, ma non solo, sarà il luogo del divertimento, sarà il luogo dove vedere Ciao Nio, il luogo dove cantare mentre proiettiamo Rocky Horror Picture Show o divertirsi da ascoltando il Drugo e magari scoprire che Alessandro Bergonzoni ama come noi il Big Lebowski. Bologna è la città del cinema, è il luogo della cineteca, è il luogo dove i film si conservano, si restaurano, i film italiani, i film del mondo, i film del passato, dove vengono volentieri i cineasti per festeggiare un evento che è di Bologna, ma che è di tutti coloro che amano il cinema. E la lingua del cinema è una lingua universale, quindi oggi è una festa per Bologna, ma è una festa per il cinema, perché un luogo del genere normalmente viene trasformato in una multisala e non è più quel grande luogo, ma diventa tante piccole sale, oppure viene chiuso e viene trasformato in un altro spazio. Invece oggi questa è la dimostrazione che la cultura è qualcosa di fondamentale per la nostra città, ma è qualcosa di fondamentale per ognuno di noi, e la cultura è qualcosa di profondo. E quindi oggi è una grande festa. Grazie. C'è stata una lunga attesa, no? Questi 9 anni quasi di cantiere. C'è stato un momento in cui ha pensato di fare qualcosa? Beh, quando ho scoperto che per fare il Colosseo ci ha messo 2 anni, ho cominciato ad avere qualche dubbio. Poi uno mi ha detto, no, ma non ci sono gli infissi. Effettivamente, no, a parte gli scherzi, i progetti hanno bisogno di tempo. C'era la relazione con la sovrintendenza, c'era la ricerca dei danari, c'è stata una legge che è stata approvata, una legge dello Stato che consente il finanziamento della riapertura di sale storiche. Il progetto era complessissimo. E poi ci sono state tante cose nel mezzo. Cioè, il cantiere è partito nei giorni in cui l'Italia chiudeva perché c'era il Covid, era marzo del 2020, e poi c'è stata la bolla del super bonus, e poi c'è stata la guerra, e poi era un progetto complicato. Certo, ai tempi del Colosseo ci volevano 2 anni, adesso un po' di più.